che nel corso di quella prima guerra mondiale, che vedrà la fine dell'imperialismo tedesco e dell'espansione tedesca nelle colonie, invece si avvengono in Italia nella previsione di una lunga durata della dominazione coloniale italiana, durata che invece sarà limitata ad altri 20 anni o poco più, come voi ben sapete dalla storia politica dell'Europa del nostro tempo. Abbiamo avuto delle attente osservazioni sul tema della politica economica, o meglio dei rapporti tra l'economia delle madrepatrie tedesca e italiana e lo sviluppo dei paesi coloniali. E diciamo che il bilancio, nella prospettiva immediata dell'attenzione che è stata posta dagli investimenti, dalle banche, dalle aziende, dai capitali italiani e tedeschi in quei paesi, diciamo subito che la resa è apparsa limitata. Le cifre di resa degli investimenti non sono state molto elevate. E questo perché? Perché mentre per la Germania il problema coloniale non era legato altro che in minima parte al problema dello sviluppo dell'attività economica, imprenditoriale e industriale, anche per l'Italia le colonie erano considerate più, come si è visto, luoghi di attesa in vista di un'espansione successiva e quindi erano considerate in certo senso marginali nel complesso dell'economia italiana. Come ha detto Podestà, la cosa cambierà durante il fascismo, ma la storia del fascismo è fuori dalla nostra, i termini cronologici dei quali noi ci siamo occupati. Abbiamo visto anche il problema dei rapporti tra nazionalismo e colonialismo per l'Italia da parte di Giuseppe Parlato, in una bella e complessa relazione sull'ideologia nazionalista italiana, come si invera in certo senso nella visione dell'espansione coloniale. E anche abbiamo visto dalla relazione del professor Blai questo tema della grande visione imperiale tedesca, nella quale lo spazio coloniale però, ripeto, mentre che per l'Italia è uno spazio estremamente importante, nella Germania, per la Germania si inquadra in un disegno più diverso, in cui c'è l'aspetto coloniale ma non è il fulcro dell'imperialismo tedesco. Talché il professor Frölich ha parlato proprio di questo movimento coloniale tedesco quasi fosse una chimera, il lento tramonto di un'illusione, quasi lui ha detto in certa misura nel suo lavoro, che voleva dire in qualche misura come la espansione coloniale tedesca non ha mai assunto a un vero inverarsi in qualche cosa di estremamente solido finalizzato a se stesso, ma è stata una illusione destinata a consumarsi da se stessa abbastanza rapidamente, al di là forse anche della crisi finale di essa che avviene nella fine della prima guerra mondiale. Abbiamo poi avuto delle relazioni sui rapporti tra chiese, mondo cattolico e protestante, missioni e colonialismo. Abbiamo avuto due relazioni in parallelo, quella relazione del professor Fonzi e la relazione del professor Gründer. Direi che c'è una distinzione, nel senso che sembra chiaramente che ci sia una maggiore autonomia, diciamo, del comportamento per quello che riguarda l'età liberale italiana, del comportamento della Chiesa e delle missioni nei confronti della politica coloniale in Italia rispetto che in Germania. C'è un maggior legame tra l'intervento missionario e chiesastico delle chiese tedesche nelle colonie. Comunque si è trattato anche questo di un tema estremamente importante, perché ben sappiamo come l'opera missionaria ha addirittura preceduto, e qui c'è Fonzi che ha ricordato il caso del Cardinal Massaia, addirittura preceduto l'opera e la conquista, l'espansione delle colonie da parte delle potenze europee. Inoltre abbiamo avuto una sola relazione, purtroppo, dovevano essere due ma il relatore è venuto, ci ha tradito alla fine, una sola relazione sul problema militare, ed è la relazione di Afflerbach, che è stata molto interessante anche per il lato comparativistico dell'impegno militare italiano e tedesco nelle colonie. Relazione che è stata molto ampia, molto ricca, piena di dati, da cui si vede chiaramente che malgrado lo scarso impegno tedesco e invece il maggiore impegno italiano, il divario tra le due esperienze si misura anche in termini molto precisi, data dal successo maggiore, diciamo, delle imprese coloniali tedesche rispetto a quelle italiane, soprattutto della prima fase, consumato questo insuccesso italiano a Dogali e soprattutto ad Adva, che segnano le battute d'arresto. Ma qui il discorso ci porta di nuovo alla valutazione del peso specifico che la Germania e l'Italia avevano allora. L'Italia era potenza molto più debole della Germania, con delle forze armate che, dalle statistiche che ci sono state prospettate, arrivavano dal punto di vista militare ad essere un terzo di quelle tedesche e con un potenziale umano che era nella metà di quello tedesco e con un potenziale industriale, questo lo sappiamo, che era un quinto di quello tedesco, per cui l'Italia era veramente nazione con le ossa ancora piuttosto fragili. Di qui può essere trovata la spiegazione, anzi è certamente questa la spiegazione, dei molti, moltissimi insuccessi che hanno caratterizzato la politica coloniale italiana fino al 1911, a quella guerra di Libia che segna un successo sì italiano, ma che non so più se ascrivere, e qui c'ho un grossissimo dubbio, tra le guerre coloniali o tra i fatti che hanno preparato la guerra europea e che è stata in certo senso guerra mondiale e che è stata, per la sua dimensione e per i teatri d'operazione e per lo sconvolgimento che ha portato e per il fatto che ha segnato un'altra ferita mortale all'impero ottomano, che è stata uno degli elementi di rottura dell'equilibrio politico internazionale prima del 1914. Da ultimo abbiamo avuto la bellissima relazione del professor Schmidt, che ci ha portato di fronte anche per il dibattito che è seguito, soprattutto grazie all'intervento di altri eminenti colleghi tedeschi, che ci ha portato di nuovo di fronte alla questione della interpretazione dei rapporti tra politica estera e politica coloniale nella Germania guglielmina, e direi anche che ci ha riproposto nel dibattito che è seguito il discorso sulla tesi di Fischer sul ruolo della Germania nel prospettarsi della prima guerra mondiale, dibattito che resta naturalmente aperto perché è un problema grossissimo. Ma qui non voglio andare a finire nella Kriegsschuldfrage e finisco ringraziandovi tutti ancora una volta per quello che ci avete dato. Il convegno è servito perché serve indubbiamente, soprattutto per noi italiani, a farci conoscere le prospettive aperte dalla storiografia tedesca in ordine al tema del colonialismo e dell'imperialismo per quanto attiene al tema coloniale, ed è soprattutto servito perché è stata una occasione pure per noi italiani di rimeditare al grossissimo problema della nostra espansione coloniale negli anni che dalla fine dell'Ottocento fino al 1918, ma direi pure a questo punto fino a tutta l'esperienza del regime fascista, in quanto è un tema che, come io dissi in apertura, è un tema che ha interessato tre generazioni di italiani e è un tema che ha visto impegnate non poche migliaia di persone come agli inizi di questo secolo, ma alla fine centinaia di migliaia di italiani, e come civili e come militari. Quindi per noi italiani è un grande, grandissimo problema della nostra storia nazionale, al quale bisogna guardare con occhi da storico, al di là delle passioni di parte, pro e contro, che hanno caratterizzato il nostro approccio fino adesso. Grazie veramente a tutti per averci seguito, e a Schieder naturalmente, perché senza il professor Schieder, che ci ha fatto, oltre che da maestro e relatore, anche da interprete, non sarebbe stato possibile fare nulla. Grazie Schieder.